continuare a fingere, a mentire. A chi? A noi ragazzi, proprio ai vostri figli. Senza un filo di vergogna fanno i VIP. Politici fanno i divi della TV. Ma mentre prendi il tuo stipendio da parlamentare, la gente soffre, tu non vai neanche a lavorare. Vai in giro a farmi vergognare di essere italiano. Intanto nei quartieri andare avanti non ce la facciamo. Io sono stanco di spaghetti, pizza e mandolino. Voglio un futuro per me e anche il mio bambino. Parlano di libertà, quale libertà? Fratello, svegliati e guarda questa Italia. Il bel paese dove non hai opportunità. Se non fai parte di una famiglia o una mafia. Ci hanno dato droghe pazze per stare in silenzio o intripparci in cose che non hanno senso. Mi fa paura pensare alla mia vita nelle vostre mani. Io penso a Carlo Giuliani. Chi sono i criminali? Ti senti forte adesso dentro il tuo completo blu. Io non arretro più. Mi sento forte dentro al mio fottuto velour set. Fanculo le vostre camicie nere con le strisce red. Il mio cash, la mia libertà, la mia casa, la mia vita, la mia identità. Potete darmi anche un lavoro, risolvere i miei guai. Giuro sulla pelle non mi avrete mai. Potete prendervi i miei anni, la mia gioventù, la mia moto, le mie canne, anche la mia TV. Mi potete condonare, risolvere i miei guai. Figli di puttana non mi avrete mai. Stacchiamo. Nei locali della zona autonoma Milano, degli studi di Radio ZM, grazie al supporto di Hack Lab Unit, trasmettiamo in diretta la 12ª puntata di Pillola Rossa. Non c'è il tecnico, stasera la squadra tecnica è andata dove la pagavano. Esatto. E sì. Quindi non c'è il tecnico. Siamo senza tecnico, quindi capitomboli. Allora, iniziata 12ª puntata, cosa c'è stato? C'è stato, diciamo, di non essere principale, la manifestazione di sabato che ha fatto, insomma, di un 10.000 persone parlano, qualcuno dice 5.000, ma insomma sostanzialmente facciamo 5, facciamo anche, cioè non è importante tanto singolo numero, cioè comunque c'era una bella fiumana di gente a partire da Piazza Medaglie d'Oro, si è atteso molto alla partenza, è andata per fare questi sostanzialmente un chilometro e mezzo che separa Piazzale Lodi da Medaglie d'Oro e da Piazzale Corvetto, è durato un bel po', ci sono stati rallentamenti, ci sono stati attimi di commemorazioni, insomma un bel momento, tante realtà che si sono accomunate e molti fotografi, molta gente che seguiva con un po' questo fare di notizia facile, poi insomma come si sa in questi casi si trova tranquillamente uno quando vuole costruire, sminuire un messaggio chiaro e lampante come lo spreco di soldi che ci sono state per queste Olimpiadi, se vuole invece focalizzare il pensiero su due scontri che magari in un livello alto di dissenso sono un po' inevitabili, però non deve perdere la concentrazione su tutto ciò che è stato manifestato, insomma. Allora, a livello logistico, diciamo che la manifestazione di 5.000 persone è rimasta ferma un'ora esatta in una via imbottigliata tra Piazza Bonomelli e il consolato cinese. Un'ora forse a vantaggio dei fotografi di tutte le razze e le etnie che hanno schedato queste 5.000 persone, e tra i concetti forse di andare fino in tangenziale in 5 dopo 2 ore, non si sa perché, la manifestazione avrebbe potuto bellamente fare 500 metri in su alla circonvallazione interna che le Olimpiadi hanno bloccato e magari bloccare quella. Questo per la logistica della manifestazione. Sì, è stato un uso e consumo. Sì, sì, sono d'accordo su quello. Allora, lo stop and go è un po' programmato, nel senso in alcune tappe fondamentali come, cioè, la grande vista allo Scalo Romana del Villaggio Olimpico, che una tappa poteva anche essere forse l'invasione del Villaggio Olimpico. Diciamo che la contestazione che poteva essere utilizzata non c'è stata, è stata forse più una schedatura di massa con pochi risultati, a parte le dichiarazioni dei politici tremende. Ha fatto... Guarda, sinceramente non le ho non mi sono pronunciato al sentirle, perché sostanzialmente un po' sono sempre quelle, nel senso, settimana scorsa c'è stato Torino e quello che abbiamo visto poi del lancio di petardi o meno, cioè le dichiarazioni sono sempre quelle. Poi quando vuoi far notizia su un minuto di manifestazione, è quella la cosa. Ma ne parleremo perché fa ruggine, anzi fa attrito, direi. Ne parleremo che fa attrito. Che combine, ragazzi. E nei microfoni. Sentiamo un attimo che cosa hanno scatenato queste manifestazioni di questi giorni. Network, io sono Luigi Amoroso, questo è l'orizzonte delle 20. Questa sera il decreto sicurezza del governo, che è stato approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Molte le norme che sono state messe dentro, alcune riguardano insomma, emergenze del momento come l'uso dei coltelli, per cui c'è un bello giro di vite su chi va in giro con il coltello. È previsto il carcere, coltello oltre una certa misura, 8 cm. Norme diverse per reati diversi. Quello che ci interessa di più qui stasera è il diritto di manifestazione, che ci sembra venga messo in discussione con misure quali le pene amministrative, fortissime multe per chi non si comporta come dicono le forze di polizia in piazza, magari ad esempio perché cerca di fare un pezzo di corteo che non era stato previsto. Ma soprattutto questo fermo preventivo di chi, e insomma adesso cerchiamo di capire di chi, persone che vengono segnalate dalla polizia. Saluto l'avvocato Mirko Mazzali. Buonasera, avvocato. Ma pubblicità. Tracelleresti mai il cranio a tuo cugino con una zampa di maiale? No. Appenderesti mai una vecchietta per i piedi ad un elicottero? No. Strapperesti mai le orecchie ai tuoi negozianti di fiducia? No. Scaricheresti mai un film da internet? Sì. Scaricare un film da internet è reato? E me hai detto sì. Hai detto sì? Hai detto sì? Sì. Ah, ho sentito, scusa. Cimitero, no, no, non voglio portare, no, tutte le cose che ho, no, no, no, non voglio essere, no, il più ricco del cimitero, no, no, lo spazio è quel che è ed ogni cosa è un di più. L'impianto che ha letto, che cosa deduce? Beh, è un attacco diretto al diritto di manifestare, dove, non so se apposta o no, la questione del fermo preventivo paradossalmente rischia di essere la meno pericolosa, poi spiegherò perché. Perché nei richiami, eccetera, eccetera, c'è un po' quello che lei aveva detto prima, c'è per esempio quella norma, secondo me assolutamente grave, che in presenza di una sentenza di condanna per lesioni aggravate, che come dire non è un reato particolarmente grave, il giudice può emettere il divieto di partecipare a manifestazioni, pubblici assembramenti, per un periodo anche fino a 3 anni, o in caso di pene più gravi per un periodo fino a 10 anni. E questo, come dire, è un attacco diretto al diritto di manifestare, che deriva da una sentenza di condanna. Ci sono poi quelle che sono già state accennate prima, l'aumento di pene per la manifestazione senza preavviso, sanzioni amministrative gravi per chi fa un percorso diverso da quello concordato sul corteo, quindi, come dire, in qualche misura senza neanche che ci siano atti di violenza. L'idea che mi sono fatto io è che ci sono delle norme pericolose che andranno viste, che sono queste, cioè per esempio addirittura la parificazione del manifestante al tifoso, per cui colui che viene colpito dal divieto di manifestare dovrà recarsi tutte le volte che c'è una manifestazione a firmare nel commissariato. Allora, questa era una, diciamo, riassunto sull'applicazione del decreto sicurezza, che appunto dicevano che è paragonato un po' come il tifoso da stadio, come se manifestare fosse una partita di calcio, uno che patteggia per uno o per l'altro. Vabbè, questa è la direzione è questa. Nel frattempo, nell'appartamento di fianco, quello dei lavoratori precari, insomma, cosa c'è? C'è una nuova, diciamo, nuova mica tanto, nel senso è stata emessa una sentenza su appunto queste piattaforme di vendita di cibi e di portaggio a casa, insomma. Indagata dalla Procura di Milano è Foodigno, l'SRL, che insomma è il marchio che comanda Glovo, nel senso è stata un po' condannata per le retribuzioni al di sotto della soglia di povertà, ma quando dico al di sotto del circa, si è calcolato il 79%, quindi si parla sostanzialmente di lavoratori che lavorano dalle 10 alle 12 ore e che vengono pagati 2 ore e mezza a consegna. Non c'è il contratto di lavoro ora, diciamo quello del CCNL, c'è questo vecchio contratto di comodo che insomma è a cottimo sostanzialmente, quindi indagata anche per quella e per l'applicazione del famoso algoritmo che insomma ti premia o ti condanna, questo per quanto riguarda a tal proposito c'è un piccolo suggerimento, c'è un bel film che mi sembra si chiami Suleiman, la storia di Suleiman, un film francese che parla proprio di questo, cioè parla di un lavoratore appunto di delivery, un cosiddetto rider, e di tutto il praticamente la questione del caporalato e delle fotografie che vengono richieste ogni ora e tutto ciò. Questi sono i Bruccherò di Pascoli. Madonna mia che fiacca, i primi bicchieri erano, ma non da qua. Se ci provi giuro ti taglio quella faccia, manco devo dirlo che è stata una giornata già. Madonna paga, scia, madonna mia che fiacca, riempivi il bicchiere mano, ma non da qua. Se ci provi giuro ti taglio quella faccia, manco devo dirlo che è stata una giornata già. Madonna paga, scia, c'ho il bicchiere scarico, manco lo devo chiedere. C'ho qui mio fratellino che sa fare il suo dovere, non bevo della qualete che mi fa venire sede, mi asciugo se gin e tonica, vomito come Monica, volo come in Nicole, ma in curva se sono un po' pria, tirando per via Padova e pensando che sto in Umbria. Non credo nelle ingiurie di chi prima me lo succhia e che sputa quel che in bocca stata già Madonna Bagascia. A quale papere come diceva nonno? Lo diceva convinto come se fosse un apostolo. Non che fosse un poeta, un filosofo molto noto, ma mi ha cresciuto negli ordini e verso una per i morti. Non so se è caso di avviarsi verso quella festa in Porta Garibaldi. Ci ambriachi versi tipo Gine Bacardi. Mi casa e tu casa dal bar d'Adriana. Sfogliamoci pure due bianchi, pronti a fare show. Blues Brothers, vocali da sola, anche se sono le nove, si fottano le prove. Cazzo cieli, si dimentichiamo le parole. Madonna Bagascia, la sposa non passa. Madonna mia che fiacca, ti bevi il bicchiere ma no, ma non da qua. Se ci provi giuro ti taglio quella faccia. Manco devo dirlo che è stata una giornata già. Madonna Bagascia, madonna mia che fiacca, ripivi il bicchiere ma no, ma non da qua. Se ci provi giuro ti taglio quella faccia. Manco devo dirlo che è stata una giornata già. Madonna Bagascia. Intanto cosa sta succedendo in quel della Sicilia, sempre in Italia? È Pillola Rossa che vi parla. Vi facciamo ascoltare cosa succede giù. Cosa dicono i governanti che arrivano giù mentre giù franava qualcosa e loro arrivano? Grave dinamica, non è un terremoto dove avviene e poi si ricostruisce. Questa è una situazione critica in evoluzione, per cui è giusta la indicazione dei 150 metri di sicurezza. Poi si verificherà se ridurlo o meno, però è evidente che c'è tanta gente che non tornerà più in quell'abitazione, non può più tornare. Si sono fatte analisi sull'aspetto dell'assistenza sanitaria che viene garantita, abbiamo fatto degli incontri, stiamo sollecitando il riaggancio del gas che manca, naturalmente si potenzieranno le squadre dedicate a questa attività, le abbiamo fatto chiamare. Per quanto riguarda poi la questione della diciamo ripopolazione di chi perderà la casa, ci stiamo facendo carico di realizzare un progetto programma di ricollocazione a spese naturalmente pubbliche di nuovi alloggi, alcuni nuovi in via di fatto sostanzialmente, altri sta trasferimenti parlando di alloggi già esistenti, della regione Sicilia, comunque ragazzi, c'è un piano che prevede dare garanzia a tutti coloro i quali non potranno rientrare nelle loro abitazioni di poter avere una nuova abitazione. Questo è l'impegno della regione. Io come commissario straordinario nominato ieri e al cui interno dell'interno di questo provvedimento c'è anche la crisi di Niscemia, ma a prescindere da questo sarei stato qui del governo, per dare vicinanza regime, alla popolazione, va. Ma anche dare assicurazione che chi perde la casa non rimarrà senza casa e sicuramente certamente sarà salvaguardato. Grazie e buon lavoro. Grazie e buon lavoro. Arrivederci. Fate spazio. Amami. Aprimi. Amami. Ami. Sgonfiami. No, apri. Dunque, stringimi, gonfiami. Amami. Aprimi, sgonfiami. Manca una cosa. Vediamo qua. Amami, amami ancora. Due volte amami allora. Sì. Amami. Amami. Stringimi, baciami. Piegati. Piegati è brutto però. Piegati non sembra una cosa, no? Amami. Slogami. Spingiti. Spingimi. Slogami. Spingiti, no. Amami, amami, stringimi, gonfiami, gonfiami. Amami, stendami, stracciami, applicami. Stringimi, dammi l'ebbrezza nei tendini. Oh, prendimi con le tue labbra, fracassami. Rido, non riconosco gli aneddoti. Sfiondami, spostami tutte le feli. Sbattimi, lasciami solo negli angoli. Oh, brivido, io non distingo più i datteri. Silvano, Il sesso come azione rivoluzionaria, una delle tante rubriche di Pillola Rossa. Noi siamo felici, noi siamo contenti, le chiappe e il culo porgiar riverenti. Al nostro gentile e amato sovrano sia dono gradito il buco dell'ano. La gioia che mi doni, o popolo, è sì grande che più l'uccello regio non sta nelle mutande. Per mio regal decreto, sera da domattina, distribuita ai poveri gratis la vaselina. Voglio siano compensati i sudditi fedeli, in cui pigliate pure, ma state attenti ai peli. Allora, abbiamo appena trasmesso i Mojomatics nella quota dei fuori quota di Pillola Rossa. Tra i vari. Scusa, Pillola Rossa, programma di musica italiana. Esatto, che va avanti e sostiene la libera divulgazione della comprensione del testo. Per quelli che non sanno le lingue, almeno. Per questa puntata ho fatto questa un po' ricerca che ci eravamo ripromessi dalla prima puntata della prima stagione di localizzare anche i gruppi, ovvero cioè nella cartina italiana. Quindi per questa quello che abbiamo trasmesso oggi, attrito che provengono dalla provincia di Trento, Brucherone e Pascoli che provengono dalla provincia di Bologna. Questi erano i Mojomatics che vengono dalla provincia di Venezia. Chi ci ha introdotto alle delizie del sesso erano Cocchi Ponzoni, Renato Pozzetto, Enzo Iannacci 1977 in studio a cazzeggiare.

cosa che stavamo dicendo? Boh, te lo dico, per me un nichilismo attivo consiste nell'accettazione che tutte le credenze sono false. Ed è tipico dell'oltreuomo, del superuomo, come ha sempre sostenuto Nietzsche. Cioè. Sì, vabbè, Fabio, però Nietzsche è commerciale. Sì, vabbè, se pensiamo a Schopenhauer. Dai, ragazzi, si gira! No, è chiaro che se l'obiettivo è non farti andare in piazza, tu in piazza non ci vai, PM o non PM in questo caso. Ma anche adesso, scusatemi, ma non è che se adesso trovavano uno con un bastone o con una molotov e dicevano va bene, vai in manifestazione, lo trattenevano, gli facevano un verbale, magari rallentato, e la manifestazione la perdeva lo stesso. Queste sono norme, come dire, solo ideologiche, no? Che dicono fanno il fermo preventivo, poi adesso io mi auguro di non sbagliarmi, ma che effetti pratici non ne avranno, mentre quello che dicevo prima, quelli lì sì che sono problemi, cioè nel senso che sanzioni amministrative di 1.000 euro, 3.000, 4.000, 5.000 euro per delle persone, come dire, che non sono ricche, sono un deterrente particolare, ecco. Perché magari che possono essere combinate, perché magari il percorteo prevedeva che si andasse, che ne so, certo, percorso Buenos Aires, se uno gira perché vuole andare… sotto la sede di un partito, gli danno 5.000. 5.000 di multa a tutti quelli che sono lì nel gruppo. Cioè 5.000 a ciascun partecipante, non 5.000 totali, si fa la colletta. Sì, no, cioè, no, 5.000 a ciascun partecipante. E quindi che, sono tanti soldi. Allora ragazzi, sull'argomento, noi sentiamo, grazie all'imperatore, non il ventre molle, ma la sindrome di Crohn del paese. Diciamoci la verità, Sara. I poveri sono la palla al piede della nazione per lo sviluppo dell'umanità proprio. Cosa ne pensi? Caro Muchi, eccoci qua a proposito del denaro come discriminante sociale. Io penso che dai secoli e secoli è sempre stato così. Il denaro, il ceto, ha sempre stabilito chi avesse potere e chi meno. In questi tempi dove si assiste anche veramente alla decadimento di questa società capitalista che si manifesta in tutti i suoi brovi, tutti i suoi orrori, in tutte le sue schifezze, è evidente come il denaro sia un elemento che divide e separa e soprattutto crea grossissime differenze a livello umano. Quindi che dire, ci vorrebbe veramente un atto rivoluzionario da parte di tutti noi, delle persone, non della gente ma delle persone, affinché non si inseguisse più questo mezzo come un dio, come un valore assoluto. Ma purtroppo anche le nuove generazioni sono affascinati da questo mezzo di potere, perché il denaro ti rende libero e si può dire quello che si vuole, ma se io ho del denaro, sono libero di curarmi dove voglio, posso andare in vacanza dove mi pare, non ho problemi che mi affliggono a fine mese su come pagare una bolletta o come far affrontare delle spese. Quindi mi duole dirlo, ma il denaro rende liberi. In una società capitalista. Esatto, a tal proposito che riallacciandosi al discorso di Giorgio Meloni, che insomma parlava di chi vuole smontare e chi vuole contribuire diciamo il benessere e il tripudio dell'Italia, e parlava male di chi manifestava contro le Olimpiadi, che poi il concetto insomma non so se penso che comunque chi voleva capire l'ha capito, nessuno è contro le Olimpiadi. La gente è contraria ai soldi spesi a Kaiser Soze per le Olimpiadi, soldi che sono stati buttati al vento. Cioè, qualche settimana fa sono stati stanziati 5 milioni di euro extra dalla regione per finire gli ultimi lavori che non sono sostanzialmente finiti. La torre della 2A è ancora in pieni lavori in corso, mentre si assistevano le partite di hockey nella Arena Santa Giulia in zona Rogoredo, che c'erano ancora gli operai al lavoro, quindi nonostante abbiano un po' pulito davanti e nonostante siano, mi sembra che sia morto anche una guardia che rimaneva qui, rimaneva lì fuori per tentare di non far rubare, boh, è morta di freddo comunque. E in tutto questo, intorno a tutto questo, a questo, a quelli che insomma si sono presi i soldi a pioggia, ci sono poi i volontari, quelli che tanto inneggia la Presidente del Consiglio, che sono questi 18.000 volontari. Di pochi giorni fa l'articolo che appunto il Veneto, che fa parte di queste Olimpiadi, ha detto sostanzialmente ai volontari: ragazzi, portatevi il sacco a pelo. Ma su questa propaganda, io vi farei sentire prima ancora la propaganda di regime sempre in Sicilia. Questo è Schifani, ma non per schifarvi, ma per rendervi edotti del comportamento. Mi ricollegavo. Beh, lui ci fa capire abbastanza bene. Né? Mi ricollegavo appunto. Sta mollando tutto. Ne vede che la parete si sta. Non posso vedere quello lì. Si sta ribaltando. Niente, qua devi vedere da questa parte. Poi da questo, fa impressione. Schifami aniscemi sul luogo dello smottamento. Questa zona, in questo dove siamo noi, che è anche zona rossa, quindi siamo al limite del rischio, tutta questa zona abbandonata, anche con questa che è a rischio, viene riconvertito, viene abbandonato o viene posta in tutela, in sicurezza, viene isolata? Questo mi chiedo io. Chi se ne occuperà? Noi, la protezione nazionale? Cioè, è una zona a rischio o non è una zona a rischio? Sì, è una zona a rischio. Mi sto chiedendo, chi se ne occupa? Qual è il destino di questa zona? Anche dove siamo noi, che siamo prospicienti, che ne sappiamo se fra uno o due anni questa frana prende anche questa zona. Sicuramente. Sicuramente, qual è la previsione di tutela, di isolamento di questa area? Dobbiamo darci un programma con la protezione civile nazionale di mettere in sicurezza tutta questa. Sostanzialmente, cos'era successo? Era successo che la zona a rischio, lo sapevano già documenti storici da tipo il 1750. Dobbiamo privilegiare uno cioè era una cosa che insomma è risaputa, quindi cioè questo stupore del presidente fa un po' ridere, ecco. O no? No. E allora vogliamo sentire direttamente la popolazione o... Ma sentiamo il cuore del paese. Aniscemi. Cosa dicono i cittadini? Sta mollando tutto. Ma dirgli una cosa, no. Che in 30 anni i politici se ne sono altamente fregati di tutto questo e che oggi sono qui a raccogliere le lodi, non so più di che cosa, c'è una forma di sciacallaggio mediatico, tutti stanno sfruttando questa tragedia umana e non solo, quindi è un palcoscenico di criminali. Solo questo volevo dirgli, lo trasmetta, perché guardi, ci sono delinquenti di tutti i tipi, gente condannata per mafia, gente che si fa le passerelle anziché stare qua, sta girando tutto il paese e noi siamo qui a guardare, un paese che sprofonda forse anche questo. E guardateli, sono tutti vestiti, impacchettati per fare passerelle mediatiche. Non ci stiamo, speriamo di fare una rivoluzione popolare, perché è vergognoso tutto questo. No, la mia situazione è che ho tanti amici che sono stati completamente sfruttati. Però dico, siamo tutti a rischio, eh? Attenzione, siamo sotto un suolo vuoto qua, quindi non è che sappiamo cosa succede tra un attimo. E quindi viene un po' tutto sottovalutato. Vorremmo vedere persone con sacchi di gomma piuttosto che tutti ingioellati e incravattati. Siamo disgustati. Vietata sei tu, vietata la vita, sembra di più, vietata sei tu, vietata sei tu, vietata. pubblicità. Cominciamo da qui il nostro discorso sulla birra. Scegliere la birra è già una scelta intelligente. Comprarla con il vuoto a rendere è più intelligente ancora, perché non si fanno sprechi e si risparmia. Si spende meno e se ne compra di più. E poi parliamo di quando la bevi. Adesso, per esempio, non posso permettermi di ritrovarmi rimbambito dopo mangiato, ho da fare, devo andare a lavorare, e mi bevo la mia birra, che è la più leggera delle bevande alcoliche. Oppure adesso, per festeggiare il fatto che non sono aumentato neppure di un etto e sono in perfetto peso forma, mi bevo la mia birra, che non ingrassa perché ha pochissime calorie, meno di un succo di pompelmo, lo sapevate? Ah, oppure adesso che devo avere sprint e mente lucida. Date retta, se ci tenete al peso forma, alla mente lucida, a vivere con sprint, andate tranquilli con la birra. Proprio così, se vuoi andare forte, vai piano con l'alcol, vai con la birra. Meditate, gente, meditate. Allora, nel frattempo, visto che Pillola Rossa non soltanto vi fa vedere la realtà orripilante che ci circonda, ma anche le cose belle che succedono e le realtà di chi vuole cambiarla, questa dimensione, cosa succede sul fronte della grande distribuzione? Abbiamo notizie, mi sembra, un collegamento, mando dalla grande distribuzione un collegamento, aspetta, pronto? Arriva, arriva. Perché i prezzi nei supermercati aumentano più in fretta di tutti gli altri? Chi sta mangiando sulle spalle dei consumatori? Per l'antitrust il quadro è chiaro, la filiera è sbilanciata. Da una parte i colossi della grande distribuzione con enorme potere, dall'altra migliaia di piccoli produttori in crisi e famiglie con salari tra i più bassi d'Europa. Nel solo arco del governo Meloni i prezzi del cibo sono aumentati quasi del 25%, ben più dell'inflazione generale. Per questo Ultima Generazione, insieme a tante altre realtà, 4 mesi fa ha lanciato un boicottaggio della grande distribuzione. E tu, hai già iniziato a boicottare i supermercati ogni sabato? Ci chiedono i giovani di Ultima Generazione. Scopri come boicottare. Alcuni riducono questa crisi alla cosiddetta inflazione di avidità. Si tratta di speculazione. Dopo che i prezzi sono schizzati a causa del caro energia e delle crisi internazionali, non si sono più abbassati nonostante il costo delle materie prime sia tornato ai valori precedenti. La grande distribuzione ha pensato bene di allargare i propri margini sfruttando la rassegnazione dei consumatori di fronte al caro prezzi. Così, mentre i profitti crescono, le famiglie arrancano tra doppi lavori, rinunce quotidiane, fino a dover scegliere tra riscaldamento e cibo. Non possiamo accettarlo, siamo già in migliaia e continuiamo a crescere. Aderisce il boicottaggio, organizziamoci, informiamoci e facciamo pressione perché i prezzi siano chiari e giusti. Ogni sabato continua a boicottare. Abbiamo fatto ascoltare Vietato Vietato con gli Usmamò e vi lanciamo i Camillas con l'Anca. Intanto avete capito il discorso sul boicottaggio? Ehi tu, tu, sì tu, bravo. La senti una voce che ti chiama? La senti? La parte dimenticata di te, la senti? La senti? Sei forte, la senti? Tranquilla, modesta, ottusa, feroce, liscia, morbida, non pensa, non parla, lo sai cos'è? Non pensa, non parla. Sorride, lo vedi quando la chiami. Il mio fisioterapista dice che il mondo è a forma d'anca. L'avanti, indietro, le mani, gli occhi a goccia, le frecce, le bandiere. Andiamo via, spegni, accendi, andiamo via, spegni, spegni. Devi pagare una multa, no, devi votare, no, è scaduto il permesso, no. Un posto di blocco, scendi, mani in alto, no. Non ti preoccupare, muoviti tranquillo, indietro, prendi spazio. La libertà è sempre lì con te, prendi spazio. Di qua e di là, non ti lascia mai, non avere paura, non ti lascia mai, non ti lascia mai, non avere paura. Di qua e là, non avere paura, non avere paura. Mai. Lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, lanca, l no, fai la pipì, no. Ti guardi allo specchio, stai calmo, stai tranquillo, siete tu e lei, lei e tu. Vi guardate negli occhi, la tua libertà si sposta di qua e di là, di qua e di là. Non c'è nessuno con te, di qua e di là, di qua e di là, di qua e di là. È l'anca, l'anca, l'anca, la cala. Lanca, lanca, la cala, cala, calanca. Lanca, lanca, lanca, la calanca. Lanca, lanca, lanca, lanca. Lanca, lanca, lanca, la calanca. Lanca, lanca, la cala, cala, calanca. Lanca, lanca, lanca, la calanca. Lanca, lanca, lanca, lanca. Questi erano i Camillas da Pordenone, vengono da quelle parti lì più o meno. Sul capitolo cosa c'è da fare, vabbè, abbiamo mandato prima i Sic Tambur che suonano fra due giorni al Santeria. Penso che sia anche tutti esauriti i biglietti, perché i Revival adesso vanno alla grande. E invece per quanto riguarda invece il cosa c'è da vedere, c'è un'iniziativa che comunque fa parte dell'associazione giardiniere, che è in via Carlo Imbonati 12 il 24 febbraio alle 20:30 presso l'associazione Alve Auree, che è il paesaggio non è residuo. Una lettura scenica, ingresso libero con offerta a sostegno dell'ambiente e ai beni culturali. Sì, c'è anche I Cavalieri delle Risaie, un racconto tra acqua, agricoltura e biodiversità. Beh, vogliamo anche lanciare un proclama anche noi a tutti gli ascoltatori di Pillola Rossa. Chiunque voglia dare dei contributi, voglia partecipare, assolutamente, o sì, adesso sì, tramite i canali che potete immaginare, ma al più presto, sono anni che ve lo diciamo, recupereremo un numero di telefono non per avere, vero, una non diretta. Non dicono che non è vero, ma in realtà... Beh, iniziamo a dire che quest'anno abbiamo avuto... Adesso questa è forse la prima puntata che non l'abbiamo in diretta, però abbiamo fatto... tra interviste dirette, insomma, quindi quest'anno ci siamo impegnati un po' di più. Non c'è il tecnico, Cristo, e non c'è, c'è il tecnico. E riallacciandosi all'audio di prima su insomma il problema dell'aumento dei prezzi nei supermercati, un po' questa scelta politica di impoverimento generale e di rassegnazione, era comunque un proclama di ultima generazione. E noi in ogni caso adesso vi mandiamo i Godu Gong per digerirvi questi tutto qui quanto. Ecco, questi qui suonano fra... No, allora non suonano loro, penso che suonino in Mai Mai Mai, che questo pezzo è fatto insieme. Difatti è il randaggio e fit Mai Mai. Questa mai... è... psichedelia italiana. We'll be right back. aveva detto che era sulle tracce di chi aveva ammazzato mio fratello Salvatore, un certo marchese. Il nome di questo marchese, il nome di battesimo non gliel'ha fatto? Di Filippo Marchese. Ah. E poi aveva ricevuto un avvertimento di andarsene da Sant'Erasmo. Come che questo avvertimento come era arrivato? A voce, per iscritto? A voce. Dall'ancora, da tempesta. Girato. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Ragazzi, in segno delle buone notizie vi mandiamo un certo signor Rossi che tanto tempo fa, in una situazione come questa, che è sempre stata dura in realtà, diceva che il tempo crea eroi. Ed il tempo intanto crea eroi. Mentre il sole brucia ancora per i cazzi suoi. E la terra grassa e ricca frutta gelosie. E la scuola insegna poesie. Gioca al tempo dentro i bar. E si prega un Dio digerendo i guai. Tutto ciò è la vita, amico, e tu lottando vai. Messaggero dei problemi tuoi. Con le mani sporche di allegria. I bambini giocano coi sassi della via. Ed i vecchi invecchiano davanti alla TV. Con la pipa è uno scommettiamo in più. E davanti è ancora tra la nebbia e la follia. Ed in tasca la democrazia. E alla gente povera rimanga l'onestà. A vantaggio di chi non ce l'ha, che comunque può comprarsela. Ma restate pure calmi, lì seduti al bar. Con il vostro Dio i vostri piccoli guai. I vostri piccoli guai. No, non è successo niente, non è successo niente, niente. La vostra casa è là, la vostra casa è là, la vostra casa è là, la vostra casa è là. E nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ve la toccherà, la toccherà. Se i governi avessero a fin di bene speso solo la metà di quanto negli ultimi 40 anni spesero per la guerra, il benessere materiale e morale raggiunto sarebbe stato grandioso, oltre ogni calcolo. Perché questo non si fece? Chi lo impedì? I governi di ieri, oligarchie, esponenti di caste finanziarie, militari, politiche, chiesastiche, erano tutti intenti ad alimentare il proprio orgoglio e i propri possessi, sfruttando i popoli ai quali volevano far credere di essere, proprio da loro, protetti e aiutati. Qui era il calcolato imbroglio. E ora, se quelle caste continuano e più giganti di prima, l'inganno continuerà più sottile, più subdolo e più distruttore. Ed è proprio per la colpa di quelle caste che l'uomo è costretto ad essere cattivo e ladro perché ha fame, a essere egoista perché i mezzi di vita non gli sono sicuri, a essere fratricida perché la vita gli viene contesa. Soddisfiamo la fame, rendiamo sicura la vita materiale, garantiamo l'avvenire, diamo pieno respiro ai bisogni della mente e del cuore. Ed allora la guerra scomparirà e la dignità dell'uomo potrà trionfare. Dove sta adunque l'utopia? Nel volere la pace o nel fare e rifare la guerra? Questo era il manifesto teosofico Azione Unitaria Mondiale, cose del 1947, mai morte, e sostanzialmente che continuano nei tempi, nei secoli e nei secoli. Ci agganciamo con questo a un'altra visione della vita, che è quella di Valentina Cavera, che per la terza settimana mandiamo in onda il suo, diciamo, poker di poesie. Non dico l'argomento, ci vediamo dopo. Comunque stavolta non ve la lasciamo per ultima. Ciao a tutti, saluto gli ascoltatori di Radio ZAM. Lasciatevi trasportare da questa nuova onda poetica per ascoltare i miei scritti del giorno. Ho preparato una sequenza che ho intitolato Visioni satellitari e introspettive. Quindi immaginatevi un occhio che spia dalle nuvole, il mondo che si fa giorno e poi buia tenebra, dall'alto e dentro di voi. Benvenuti, buon ascolto, Valentina Cavera. Tra le forme. Poesia dentro le nuvole. Per un attimo sei stata un topolino bianco che nel roteare pareva un ballerino, poi soffice pecorella, presto nascosta dalla coda di una balena celeste, mentre si tuffa in un faccione arrabbiato e da dietro la testa di un gigante che ha soffiato il candore di un paesaggio innevato. Paesaggi autunnali. Un brivido di sole tra i rami, un volatile stornello del petto rosso, illuminato l'autunno si rischiara. Sospecchi i fogliami inumiditi, gli acquatici stagni rinfrescati, nuovamente discendono come stelle, lamine dorate, preziose d'ornamento. Il muschio si fa odoroso, sul tronco trova riposo, quel batticuore della nostalgia che come un vortice segue le foglie, mosse dall'aria che torna e va via. mattina. Uggiosa mattina, desta impreparata, il crepitio di un dolore lontano strapazza. Animali corrono invano sotto il cielo immacolato. Siamo ancore sulla riva infangata. Ripartire i frammenti di questa grigia giornata si asciugano in versi su corpi silenti. I litigi tra corvi. I litigi tra corvi sull'orto del vicino, cancellate e gracchiate tra volti funesti di lugubri danze d'ali, ricorda di sapori dell'uomo nello spartirsi un tesoro, un decoro, il becco tra i rovi secchi dell'inverno, quel giorno in cui sei fuggito senza parole, cuscino di piume nere sulla neve. Aggiungo ciao poveri, veramente andate a farvi fottere, siete dei poveri di merda e non contate niente, solo chi ha i soldi conta, il potere in mano a chi ha i soldi. Io voglio chiedere una reazione politica, come si dice, ad Angelo Bonelli, che è qui con noi. Buonasera Bonelli. Buonasera. A questo decreto naturalmente sicurezza di cui stiamo parlando da qualche minuto. Esatto. E qual è la sua prima valutazione? Sono estremamente e profondamente preoccupato. Sentire esponenti del governo evocare il periodo delle Brigate Rosse genera una profonda inquietudine di chi sta utilizzando quello che è accaduto in questi giorni per alzare il livello dell'attenzione, coprire le responsabilità del governo nella crisi economica e sociale. Tutti noi sappiamo, per chi almeno li ha vissuti, che quei periodi del terrorismo nero e rosso sono stati periodi dolorosissimi, gravi, che nulla hanno a che vedere con quello che stiamo vivendo. È un fatto di una gravità inaudita che mi fa capire che il governo ha tutto in testa fuorché garantire la sicurezza dei cittadini. L'anno prossimo ottobre e devi ripagare tutte le tasse. No, ma scusa, io entro quando mi posso pagare? Febbraio, no? Febbraio, forse anche marzo. E allora ce la faccio. Ma devi dare... Allora, dopo Valentina, adesso questo abbiamo la pillola del paese, quella della Cistifelle. Adesso è Anna Castiglia con i Pattagarri. Ho una crisi, ma la crisi mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare con Gesù, perché in fondo è un amico un po' normale che ha bisogno di origliare, di saperne un po' di più. Per poterti benedire, perché è nato in un cortile come noi che siamo figli delle sedie fuori casa, fuori sede troppo stanchi, nell'attesa rispondiamo alle domande, ma le nostre sono al secco dove andiamo a dissetarle. Le chiese sono chiuse, finalmente frequentate tanto quanto ristoranti, teatri, pure bar. Ma le chiese sono chiuse pure quando sono aperte. Mi confesso coi tuoi occhi che con me non che le orecchie. Te lo varivi la vai. Sono quasi tutte accese, suggeriscono la noia, l'incertezza di chi non si laurea più. Verso l'una passerà la processione con la banda di ambulanze. Dovrò dare la mia offerta per avere la certezza di finire in paradiso. In un corpo che mi piace, di un felino, di un rapace. Basta che non so soffrire, altrimenti pongo fine a tutti gli istenti. Mi organizzo il funerale, che location devo usare. E se le chiese sono chiuse, finalmente frequentate tanto quanto ristoranti, teatri pure bar. Ma le chiese sono chiuse pure quando sono aperte. Mi confesso con i tuoi occhi che con me non che le orecchie. Le chiese sono chiuse, si sentono più incluse tra i bisogni e le passioni della quotidianità. Ma le chiese sono chiuse pure quando sono aperte. Pregherò nella mia stanza su un altare ricoperte. E se mi vorrei sposare io ti aspetto a braccia aperte. Ma alla fine dei 40 vuole avere il privilegio di riaprire e celebrare la rinascita di Cristo con il rischio di infettare la marmaglia di fedeli. Aumentare il raggio della condoglianza, tanto il prete tiene il metro di distanza. Ave Maria. Yeah. cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare. Sempre chiacchierare con Gesù. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso chiacchierare con Gesù. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono chiacchierare posso un po' sociale con Gesù. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso chiacchierare con Gesù. Ho una crisi. Ho una crisi, ma la crisi. La crisi. Ma... Ave Maria. A proposito di contributi, abbiamo un amico che ci ha mandato un contributo. Io l'ho nominato Nutrio Sound, ma così indicativamente. Beh, è lo stesso quello che è diventato un po' un collaboratore, perché l'abbiamo sentito, l'abbiamo sentito in diretta un paio di settimane fa. Stava indagando sull'omicidio, diciamo, compiuto a Rogoredo da questo. Era sì, sul campo a indagare. E adesso questi sono stralci. Senti, la sua musica non proprio autoprodotta manualmente, ma... Questo è una miscelata che, insomma, è un esperimento suo. Non è male. Questa città un po' accattona, un po' grattaculo, un po' baby gang, un po' vericia vecchio, che si accartoccia come foglia d'autunno, scioglie come ghiacciolo. A luglio festeggia l'estate dei morti e non ha spazio, fare una margherita che si affascina nel cemento. Non c'è redenzione, resurrezione, ultima fermata. Musocco. Salutiamo comunque i nostri 5 ascoltatori sparsi per il pianeta, tra l'Alaska e l'Australia. Ciao. Ricordiamo che il 15 di febbraio, dalle 10 alle 24, al Circolo San Luis, in via Don Bosco 7 a Milano, si terrà In Gioco per la Palestina. Giochi e laboratori per tutte le età, burracco e trucca bimbi, origami e maschere di carnevale, mostre di disegni realizzati da bambine e bambine di Gaza. Pranzo Levantino solidale su prenotazione. Incontro con l'autore del libro Quando i picchetti sono fioriti alle 17. Aperitivo e tanta musica dalle 18.30. Il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi 100% Gaza e a sostegno di attività socioeducative di associazioni palestinesi in Cisgiordania per rafforzare diritti, speranza e futuro. Eh sì, andate in bici, lì, che lì c'è il villaggio olimpico, c'è un casino, eh. Ci sono le guardie, spara la vista. Le guardie, poi hanno fregato anche, sentito, no? Hanno fregato i passaporti agli israeliani. No. Nelle no, camere. No, mi manca, sì. Mi manca. C'è una notizia, abbiamo uno scoop. Sì, sì, sì, sì. No, così? Va bene, non vogliamo approfondire? Allora... No, ho letto questa notizia di sfuggita. Ma approfondiremo le Olimpiadi, approfondiremo, ragazzi. Non è che... Approfondiremo, cioè, adesso. Pillola rossa morde il terreno. Qui ci abbiamo 20 km al giorno, incominciamo a spararci. Sì, sono un po' lunga, però fa bene lo spirito. Nicola Rigliano. Intanto, vabbè, vi salutiamo perché questa è l'ultima. Con tutti così, questa è l'ultima, dai, un Nicola salutiamo, Rigliano. Ma... Non salutiamo. Ma no, dai. Incominciamo a mandare, Nicola. Diciamo, con i cami a camminare, no? Thank you.